Quando ti urlai che era durata pure troppo, il cuore lo trovai in corsia caduto mezzo morto, poi si rialzò ma restò zoppo. La vita dice di essere di Napoli, ma non c'è mai stata. E se si usciva venisse scollata. Anche quei nomi che inventai quando li pronunciavo non era per chiamarti ma per sospirarli. Nemmeno un gatto ti comprai o un uccellino schiavo, compagno di segreti e per imprigionarli fabbricai le reti in una bella gabbia. No, mai voluto bene, forse più di me, e questo ti rimane sopra il letto delle nostre cene. Non c'era un granché, c'eri tu, regina. Tutte quante le altre donne, quanto di te darai agli uomini per farmi stare in sole? Chissà se amavi proprio me nel tempo in cui m'hai amato, ma proprio me hai smesso tu di amare un giorno. Incendiai tutto di te, ma si smorzò bagnato dal pianto del rimpianto che pioveva intorno al mio annuncio affranto, triste vedovo di te. Oh, sai, regina, che ti ho voluto bene, mai lo te. Ci ho fatto una canzone ed almeno questa ti appartiene, come un po' di me, regina, regina. Camminando in fondo.